Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Una buona serata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Focus Economia, la giornata economico-finanziaria. Non siamo neanche partiti e già vedo fioccare messaggi al 349-238-6666, messaggi che sono tutti concentrati sulla giornata di borsa, una giornata che è stata letteralmente schizofrenica, non solo per i mercati finanziari complessivi, per i listini generali, ma soprattutto per Piazza Affari, che ha visto volare da una parte all'altra del listino i titoli bancari. Allora, per tranquillizzare tutti coloro che chiedono chiarimenti, ne parleremo nel corso di Focus e di quello che è accaduto oggi in Unicredito, titolo che in questo momento sta facendo registrare un balzo positivo, per fortuna, del 10%, ma è stata una giornata di nuovo piuttosto convulsa per Piazza Cordusio, che è stata sull'otto volante. Ma in realtà questa giornata non ha riguardato solo Unicredito, perché molte altre banche hanno avuto delle sospensioni per eccesso di ribasso. Insomma, il sentiment, il gradimento intorno a questo comparto, complessivamente, lo sappiamo già tutti, è assolutamente ai minimi storici. Le motivazioni le conosciamo molto bene, in attesa che dal Congresso americano si sblocchi, e speriamo in maniera positiva, anche se non sono tutti di questo avviso, questo maxi piano di sostegno da 700 miliardi, se poi peraltro basteranno al sistema bancario americano. Insomma, fino a quando notizie confortanti da questo punto di vista non arriveranno, potrebbe essere la volta buona stanotte per poi ritornare domani alla Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti, fino a quando non si sbloccherà dunque questo piano, probabilmente vedremo ancora borse sull'otto volante, soprattutto nel vortice del mercato, i titoli del settore bancario tutti. Poi chiaramente ci sono quelli più o meno esposti nelle attività internazionali, che ci vanno di mezzo più di tutti gli altri, e infatti oggi abbiamo visto questa giornata di nuovo per Unicredito, e ne parleremo appunto nella seconda parte di Focus Economia a partire dalle 17.45 con un docente della Bocconi che ci dirà la sua sulle motivazioni che sono alla base di queste oscillazioni così profonde dei titoli bancari italiani, ragioni che ovviamente risiedono nella crisi finanziaria internazionale, ma vedremo di capire se ci sono anche ragioni, come dire, domestiche rispetto a questo andamento. Poi, visto che il versante americano è assolutamente aperto, faremo anche il punto con un altro docente universitario su quello che ci aspettiamo dagli Stati Uniti, su cosa potrà arrivare nelle prossime ore per tornare a confortare il mercato. Che comunque oggi è negativo dappertutto, è negativo a Wall Street, gli indici sono in perdita di 2 punti, sia il Dow Jones che il Nasdaq, è negativa l'Europa con performance e prestazioni molto differenziate, perché per la verità da questa mattina Londra era positiva, adesso invece cede leggermente, Francoforte sta perdendo 1,5 punti, in realtà Francoforte non ha vendite particolarmente accanite sul comparto finanziario e bancario, ma sul settore automobilistico, che oggi è nell'occhio del ciclone perché è stato preannunciato, si teme un arrivo di un allarme utile di Daimler Chrysler, quindi oggi è a picco il settore automobilistico a Francoforte, quindi tedesco e quindi europeo, e tutto questo tra l'altro alla vigilia della presentazione dei dati sulle matricolazioni in Italia, che conosceremo alle 18, e quindi faremo il punto anche sull'andamento delle vendite in Italia per quello che riguarda il mese di settembre. Parigi -0,59, Milano perde 0,5 punto per larga parte della seduta a causa della discesa di Unicredito e dei titoli bancari, era il peggior listino della seduta, adesso invece ha recuperato rapidamente terreno, sta comunque avvicinandosi alla chiusura con un ribasso. In ogni caso, insomma, volatilità alle stelle, tensione ancora molto alta fra gli operatori, insomma, speriamo che queste settimane passino rapidamente per tornare a vedere un po' di serenità, anche se insomma ormai tutti quanti dicono che quella che stiamo vivendo sarà una crisi profonda, più lunga del previsto, più lunga di quanto non si sia potuto preventivare fino ad ora, ma in ogni caso il tempo ci darà ragione, vedremo solamente in futuro cosa ci riserverà. Insomma, 349-238-6666 il numero, che vi ripeto è per i vostri messaggi, anche se lo conoscete benissimo e già tanti ne state cominciando ad inviare. Adesso andiamo con le altre notizie in breve della giornata. Allora, abbiamo il petrolio a New York, ha aperto a $99 al barile, almeno da questo punto di vista continuiamo ad avere buone notizie, però si è avvicinato anche ai $97 oggi. Il saldo commerciale con i paesi extraeuropei ad agosto, e qui parliamo della nostra economia, è risultato negativo per 2.068 milioni di euro, in peggioramento rispetto al disavanzo di 981 milioni di euro registrato nell'agosto dello scorso anno. Lo ha comunicato l'Istat, aggiungendo, sempre che su base anno, e qui forse abbiamo il dato più rilevante di questa statistica, sono diminuite del 2,1% le esportazioni, che invece fino ad ora, per quello che riguarda i nostri prodotti, erano andate piuttosto bene. Le importazioni invece sono aumentate del 7,5%. L'altro grande tema di questa giornata, ci ritorneremo peraltro al 18:15, si deciderà il 10 ottobre prossimo se la trattativa sulla riforma del modello contrattuale andrà avanti senza l'accordo della CGIL. Il nuovo round è stato fissato oggi al termine dell'incontro tra sindacati e Confindustria, un incontro che ha visto un nuovo muro contro muro tra la Confederazione guidata da Guglielmo Epifani e l'Associazione degli imprenditori. La presidente di Confindustria, Emma Marcegagli, ha detto: a questo punto valutiamo la firma dell'accordo senza la CGIL. Cosa c'è alla base di questo strappo? La CGIL, ha detto Emma Marcegaglia, chiede il ritorno alla scala mobile con una totale indicizzazione dei salari all'inflazione. Questo per noi è inaccettabile. Noi oggi abbiamo presentato una nuova, una serie di aperture importanti rispetto alla nostra precedente posizione. È stato molto apprezzato da CISL e UIL, che sostanzialmente sono d'accordo con noi. È stata di nuovo bocciata dalla CGIL. A questo punto la CGIL vuole di fatto un ritorno alla scala mobile, che è incompatibile con l'Europa, vuole una situazione di non regole nella contrattazione, che per noi è inaccettabile, una sorta di Far West. Dice che noi con questa proposta vogliamo pagare meno i lavoratori. Non è affatto vero, è vero esattamente il contrario, perché invece noi vogliamo poter valorizzare il contratto aziendale, anche perché oggi con la detassazione i soldi dati a livello aziendale valgono il 20% in più rispetto a quelli a livello nazionale. Quindi questa posizione non è accettabile per noi. Oltretutto siamo in un momento tale di crisi finanziaria e economica che veramente chiudersi in questa posizione è veramente una cosa non accettabile. Ecco, è un veto di fatto questo qui della CGIL? Secondo noi sì, perché insomma noi abbiamo fatto, rispetto alle nostre posizioni iniziali, delle aperture molto importanti. La CGIL non si muove di un millimetro e quindi è evidente che questo è un problema. Tornerete a vedervi il 10, quindi con quale obiettivo? Noi il 10 presenteremo a questo punto il documento finale, che appunto riporta le aperture ultime che abbiamo fatto in questi giorni, che sono condivise da CISL e UIL, e a quel punto vedremo che cosa succede. L'intervista era del nostro Vincenzo Miglietta. Come avete sentito, fino all'ultimo non ci alzeremo dal tavolo, ma per noi la trattativa è finita, ha detto Guglielmo Epifani, leader della CGIL, uscendo dalla sede di Confindustria dove si è tenuto l'incontro di cui abbiamo appena parlato. Epifani ha ribadito il giudizio negativo del sindacato sulla proposta degli industriali e ha sottolineato che se si arrivasse ad un accordo separato sarebbe una responsabilità di Confindustria. Il leader della CISL, Raffaele Bonanni: il tavolo sul rinnovo del modello contrattuale è ad un punto di svolta, ha detto. Ci sono altre organizzazioni che godono di un vasto consenso e lo useranno. Infine Luigi Angeletti, leader della UIL: l'incontro di oggi fra sindacati e Confindustria è stato proficuo, perché la Confindustria, ha ribadito Angeletti, ha modificato parti del documento e ha risposto abbastanza positivamente alle nostre osservazioni. Andiamo all'andamento del mercato in senso generale, alle conseguenze della crisi finanziaria in corso, sempre più pesanti. Allora, intanto i tassi interbancari continuano ad essere ancora in forte tensione. L'Euribor, sulla scadenza a tre mesi, è salito ulteriormente rispetto agli ultimi giorni, arrivando oggi, arrampicandosi oggi al 5,29%. E ne abbiamo parlato anche nel corso del giornale radio. Oggi una nota del Tesoro ha voluto rassicurare sul clima italiano. Le tensioni che si sono verificate sul mercato borsistico italiano in questi ultimi giorni prendono le mosse dalla crisi del mercato immobiliare negli Stati Uniti, che di recente, dice il Tesoro, ha contagiato anche istituzioni finanziarie europee. Queste tensioni sono del tutto ingiustificate alla luce della solidità patrimoniale e della soddisfacente situazione di liquidità di tutte le principali banche italiane, come anche testimoniato dagli indicatori di solvibilità elaborati dal mercato e da esso continuamente aggiornati. E al fine di proteggere, continua questo comunicato del Tesoro che ci sembra utile anche leggervi in tutta la sua interezza, al fine di proteggere il mercato italiano da attacchi di natura speculativa che trovano alimento dal perdurante clima di incertezze nel sistema finanziario internazionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il governatore della Banca d'Italia, ha fatto sapere di impegnarsi ad adottare le misure necessarie per garantire la stabilità del sistema bancario e difendere i risparmiatori secondo le indicazioni che sono state fornite oggi specificatamente dal Presidente del Consiglio. E dove ha parlato Berlusconi? Al vertice sull'emergenza rifiuti a Napoli ha detto: non consentirò attacchi speculativi alle nostre banche e non accetterò che i cittadini italiani perdano neanche un euro dei loro depositi. E a proposito del fronte bancario, bisogna non tremare e stare calmi, anche perché l'Italia oggettivamente ha meno rischi di altri. Questo è il commento del presidente del Consiglio di gestione di Intesa San Paolo, Enrico Salza, rispetto alla crisi che colpisce i mercati finanziari e quindi, lo abbiamo detto, anche i titoli di molti istituti di credito. Secondo Salza, che oggi ha partecipato ad un convegno a Milano, non vi sono dei rischi che le banche italiane non hanno comunicato, aggiungendo come c'è un eccesso di preoccupazione comprensibile, ma è comunque un eccesso. E intanto la Consob oggi ha varato un'ulteriore stretta sulle vendite allo scoperto. Dopo le restrizioni già adottate il 22 settembre, la Commissione di controllo sul mercato italiano, sul mercato azionario, ha deliberato un provvedimento che prevede come nel caso di azioni di banche e imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamentati italiani, la vendita deve essere assistita, oltre che dalla disponibilità, anche dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolazione dell'operazione. Noi adesso lasciamo le notizie in breve, poi nella seconda parte di Salvadanaio vi racconteremo tutta questa lunga giornata anche di Unicredit, che ha smentito categoricamente le ipotesi che stavano circolando oggi nelle sale operative di possibili dimissioni dell'amministratore delegato Alessandro Profumo. Adesso invece andiamo a vedere quello che sta accadendo oltreoceano. Allora, stanotte all'una italiana, quindi le 19 negli Stati Uniti, è previsto il voto al Senato sul piano Paulson, il segretario al Tesoro americano, da 700 miliardi di dollari, già bocciato domenica scorsa al Congresso americano, alla Camera dei rappresentanti, ma considerato assolutamente necessario per salvare l'economia statunitense. Un piano che consiste fondamentalmente, poi articolato in maniera abbastanza complessa, che consiste però nella volontà da parte del Tesoro americano di acquistare dalle banche in difficoltà in questo momento tutti i cosiddetti asset tossici e quindi fare questa forte operazione di pulizia nei bilanci delle banche americane. Professor Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa, buonasera. Buonasera. Allora, il suo ultimo commento sulla Stampa è quello del 29 settembre, porta il titolo "La crisi americana, i ricatti del piano Bush". Le chiedo se lei fosse negli Stati Uniti in questo momento potrebbe far parte di quel gruppo di un centinaio di economisti, sono 166 che non, se non ricordo male, che hanno firmato la lettera al Congresso contro il piano da 700 miliardi di Bush. Leggo appunto da questo commento sulla Stampa che lei non lo approva minimamente. Perché? Non ho le informazioni necessarie per darne un giudizio dettagliato, e può darsi che nelle nuove versioni che vengono presentate adesso la cosa sia più chiara. Nel momento in cui avevo espresso quell'opinione e avevo la netta impressione che fosse stato presentato in modo anche poco sufficientemente giustificato, documentato, e tutto fosse, diciamo, una specie di richiesta di assegno in bianco da parte del governo al Congresso. Infatti il Congresso lo ha bloccato. Adesso vediamo che cosa c'è di nuovo in questa nuova proposta. Quindi in generale, diciamo, mi è sembrato una proposta poco preparata, molto improvvisata e anche presentata in modo molto arrogante da un governo che, diciamo, non ha dato prova di riuscire ad anticipare i problemi. Inoltre ho l'impressione che ci siano delle strade alternative che forse richiedono un pochino più di tempo di quello anche che forse è a disposizione, ma che sarebbero, dal punto di vista della correttezza economica e dei mercati, sarebbero migliori. Uno è quello, diciamo, di in qualche modo nazionalizzare le banche, cioè entrare nelle banche con dei soldi pubblici ma in cambio di azioni che in parte diano la proprietà al governo e quindi anche una rappresentanza nella gestione e una responsabilizzazione nella loro riorganizzazione e poi naturalmente nella riprivatizzazione. Questa è un po' la soluzione all'europea, diciamo, che è stata anche adottata di recente per salvare molte banche. Di recente, sì. Per salvare molte banche, è in passato per la Svezia, adesso per Fortis, insomma, cioè nel senso che è una cosa di responsabilità effettiva del governo e non di, diciamo, una specie di regalo improvvisato alle banche con delle tecniche non facili da applicare. E l'altra cosa invece è quella, le due cose non sono incompatibili, si possono applicare in parte tutte e due, di fare gravare una parte dell'onere di salvataggio delle banche non sui taxpayer, non sulla finanza pubblica, ma sui creditori delle banche, cioè in sostanza trasformare in parte i debiti delle banche in azioni, quindi che dopo avranno il valore che il mercato ritiene di dovervi dare. Questo obbliga anche poi il mercato a fare una valutazione effettiva di quello che è il rischio che queste banche saltino, perché può anche darsi che ci sia un'esagerazione nella paura. Allora sì, ecco, quindi una trasformazione, un debt equity swap in sostanza, che è poi uno degli esiti normali di quello che si chiama Chapter 11, con cui vengono, diciamo, gestite le banche in condizioni difficili e fallimentari. Lehman Brothers nella fattispecie, insomma, che ha chiesto la protezione. Ecco, però in questo caso non si può applicare un Chapter 11 a tutte quante, non c'è tempo, eccetera, quindi bisogna fare una specie di Chapter 11 accelerato in cui da autorità si trasformano una parte almeno dei debiti in azioni. Ecco, questa mi sembrava dal punto di vista logico una delle proposte più convincenti. Ecco, tra l'altro lei diceva, insomma, non riesco adesso a dare un giudizio significativo, visto che non conosco anche il pacchetto che va al Senato questa sera, che va al Congresso questa sera, emendato rispetto invece alla stesura che è stata sonoramente bocciata domenica scorso. Il nuovo pacchetto, ne dico qualcuna delle modifiche, professor Bruni, include per esempio sgravi fiscali per le imprese e anche per la classe media e un aumento temporaneo di un anno da 100.000 a 250.000 dollari del tetto dei depositi bancari assicurati dall'Agenzia federale che questo lavoro fa, appunto, che garantisce i depositi bancari, che garantisce i risparmiatori, quindi le piccole imprese che si affidano alle banche. Il tema è anche però qual è la capacità massima anche di garanzia che questo organismo può dare. In ogni caso, questa è stata un'idea che a quanto pare piace sia ai democratici che ai repubblicani, perché poi abbiamo capito chiaramente che al di là dei tecnicismi di questo piano la questione è puramente politica in queste ore. Siamo ad un mese dalle elezioni, per cui è chiaro che anche il partito repubblicano fa di tutto per portare acqua al suo mulino, come si dice in casi come questo, e quindi in qualche maniera anche attirare l'attenzione da parte dell'elettorato. Queste modifiche che vengono proposte, professor Bruni, le suggeriscono qualche commento, non lo so, significativo rispetto a questo? Due cose entrambe ragionevoli, che sanno però di richiesta di compensazione, appunto, su un piano puramente politico, e che sono un ulteriore aggravio per la finanza pubblica. Io trovo che queste due cose andrebbero fatte, un po', nel senso che in un momento così grave chi ci va di mezzo di più sono i coloro che sono stati indotti a prendere prestiti in modo incauto, e quindi in un certo senso l'aiuto alle famiglie è in un momento di grande difficoltà è una cosa opportuna e doverosa, sono i primi. E nello stesso tempo l'assicurazione dei depositi è uno degli strumenti fondamentali per gestire una crisi bancaria in cui bisogna prima di tutto garantire i depositanti. Quindi inoltre in America c'è una bella organizzazione che è la Federal Deposit Insurance Corporation, che gestisce i fondi di assicurazione in modo abbastanza sapiente, quindi cosa che noi purtroppo non abbiamo in Europa, e quello dovremmo farla al più presto. Quindi le due cose mi sembrano opportune, però non risolvono i problemi di confusione del provvedimento in sé. Per esempio il prezzo a cui questi titoli verranno comprati dalle banche, il modo con cui questi titoli verranno individuati, questo strano warrant che le stesse banche non sono in grado di dare un valore ai titoli che hanno in portafoglio, figuriamoci se lo può fare il tesoro. Ecco, bisognerà vedere anche lì chi sarà in grado di poter fare una perizia, chiamiamola così, di questo genere. Esatto, e poi questi strani warrant che il governo si terrebbe in mano, nel senso che se poi le banche riprendono, lui diciamo può vengono restituiti i soldi che sono stati dati. Francamente non riesco a vedere lucida una cosa pulita, sta molto di un pasticcio, insomma, improvvisato. Ecco, detto questo, professor Bruni, abbiamo capito perfettamente la sua idea, la sua considerazione, però ci pare di capire anche che senza questo piano il mercato va a picco. Gli economisti che, dicevamo, hanno firmato questa lettera contro il piano Paulson, sono 166, guidati appunto da Jeffrey Miron, sostengono che il piano è evidentemente statalista, il mercato deve salvarsi da solo. Però abbiamo visto che nel momento in cui al mercato è mancato questo possibile sostegno in arrivo, brucia in borsa, come è successo lunedì, 1.100 miliardi, che sono 400 in più rispetto al piano di salvataggio. Secondo lei non è meglio che i contribuenti americani e poi evidentemente quelli di tutto il mondo paghino il costo di un piano predisposto dal Tesoro piuttosto che poi andare incontro a tutte le altre conseguenze che vediamo in continuazione in questi giorni? Io ho l'impressione che in parte il panico sia proprio dovuto al comportamento delle autorità. Le autorità hanno il dovere, di fronte ai problemi diciamo anche sistemici, di dare un'impressione di relativa controllabilità di questi problemi. Ho l'impressione che per varie ragioni anche politiche in America si sia esagerato nel creare l'allarme e si sia fatto esattamente il contrario di quello che le autorità devono fare. Per poter avere l'approvazione di questo piano si è gettato un panico nel mercato, che adesso sta raggiungendo anche l'Europa e persino l'Italia. Quindi io credo che in parte adesso non dobbiamo prendere le ideologie di questi di Chicago: il mercato risolve da solo. Il mercato risolve con l'aiuto e con il coordinamento delle autorità. Ho l'impressione però che le autorità si siano comportate in un modo molto imprudente e abbiano finito per allarmare il mercato più del necessario. È terribile dirlo, ma purtroppo anche le autorità sono state colte assolutamente alla sprovvista da molti rivoli, anche a volte drammatici, di questa crisi finanziaria. Grazie al professor Franco Bruni per essere stato con noi. Giornata incredibile per la borsa, volatilità alle stelle, una volatilità tale che porta in questo momento Piazza Affari sulla via della chiusura con un rialzo dello 0,59% sull'S&P MIB, MIP tele più 0,05, contrastato il quadro europeo, Londra più 0,21, Francoforte meno 0,59, Parigi più 0,37, mentre sono un po' più accanite le vendite su Wall Street in questo momento, dove peraltro c'è General Electric, un colosso di un discreto peso per i listini americani, che sta perdendo il 9% come conseguenza del record toccato oggi da questi famigerati prodotti che abbiamo citato prima anche con il professor Bruni, i credit default swap, che proteggono da un eventuale dissesto la divisione General Electric Capital, la divisione finanziaria di questo colosso americano. E oltre a questo, gli analisti di Deutsche Bank hanno tagliato le previsioni di utile per il gruppo, che dunque sta letteralmente sta scendendo appunto parecchio a Wall Street. Adesso però andiamo ai temi di Piazza Affari. Andrea Fontana, Radio Cor, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ne abbiamo viste delle belle oggi, non so se possiamo definirle così. Noi parleremo anche della situazione di Unicredit fra 10 minuti con un altro docente universitario della Bocconi, però magari aiutaci a fare questa cronaca di giornata per Unicredit sulle montagne russe, partita bene, poi sprofondata, chiude con un rialzo dell'11%. Veramente una giornata incredibile per quanto riguarda il titolo Unicredit. Diciamo che le indicazioni iniziali riferite in apertura di borsa, riferite alla creazione di un fondo chiuso in cui conferire parte degli immobili Unicredit, che avrebbe migliorato la situazione patrimoniale della banca, aveva favorito, come tu ricordavi, una partenza in rialzo, quindi un rimbalzo per quanto contenuto del titolo. Dopo sono tornate le preoccupazioni per quanto riguarda lo stato di salute di Piazza Cordusio, di Unicredit, e il titolo è stato a lungo sospeso per eccesso di ribasso fino al primo pomeriggio, quando... Che poi tra l'altro, no scusami Andrea se mi intrometto, faceva meno 1,85, in realtà che da più 6 a meno 1,85 c'è stato uno scostamento eccessivo, per cui ha dovuto subire la sospensione. Esatto, e questo poi ha portato una serie di emissioni di ordini che non consentivano al titolo di riaprire, questo fino al pomeriggio, quando quando finalmente il titolo è riuscito a ripartire in borsa, e le indiscrezioni su presunte manovre del Banco Santander e di Intesa San Paolo che appunto secondo indiscrezioni di borsa avrebbero messo nel mirino alcuni asset, se non tutta Unicredit, avevano poi acceso la speculazione insieme a un rimbalzo naturale del titolo, rimbalzo che poi è stato favorito anche da una serie di smentite arrivate proprio da Unicredit, non solo quelle di dimissioni dell'amministratore delegato Alessandro Profumo, ma anche quelle di un presunto CDA straordinario che nel pomeriggio avrebbe dovuto esaminare la situazione della banca. Ecco che su queste voci poi il titolo ha chiuso in guadagno dell'11%. E infatti, tra l'altro, citavi Banca Intesa, circolava questa voce addirittura congiuntamente, ci raccontavi a Santander addirittura un'offerta pubblica, insomma oggi nel mercato è circolato di tutto, però mi chiedo come mai, sulla scia anche di queste notizie, ma non solo, sono dovuto scendere così tanto anche Banca Intesa San Paolo questa mattina, che ha pure subito una sospensione per eccesso di ribasso, ma questa sorte è toccata anche al Banco Popolare e ad altri gruppi che non c'entrano niente col settore bancario, come Fiat, che aspetta per altri dati sulle matricolazioni italiane. In queste giornate, come abbiamo già detto anche commentando le sedute precedenti, è difficile fare ragionamenti che riguardano i singoli titoli, e vediamo come spesso la volatilità è tale che si discosta, diciamo così, da una relazione rispetto ai valori strutturali fondamentali, dicono gli analisti, dei titoli stessi e delle singole società. Quindi i ribassi di Unicredit, di Banco Popolare sono difficilmente diciamo collegabili con situazioni reali di attività dell'istituto e dei vari istituti. Per quanto riguarda invece Fiat, oggi veramente una giornata negativa per l'intero settore auto, da una parte le indiscrezioni su un profit warning, cioè su un allarme utili della tedesca Daimler, che ha chiuso la seduta con perdite superiori al 10%, arrivando a perdere l'11-12% a Francoforte nel pomeriggio. Di questo ha risentito Fiat, ha risentito BMW, sono arrivati i dati negativi per quanto riguarda il mercato dell'auto in Spagna, che a settembre su base annua ha perso il 32% nelle vendite. Siamo in attesa a minuti, alle 18 verranno diffusi i dati sulle immatricolazioni italiane, del mercato italiano, del mese di settembre appunto, e su questa attesa il mercato ha preferito vendere e Fiat ha chiuso addirittura sotto i 9 euro, perdendo un altro 4,77% oggi. Però non ha avuto la maglia di peggior titolo della seduta, perché quello se lo è meritato Parmalat, anche se non so se ci siano delle notizie precise al di là delle requisitorie in corso a Milano, il processo sul dissesto di Collecchio, Andrea. Sì, Parmalat è stato nel pomeriggio il peggior titolo, senza motivazioni specifiche, diciamo che si sono alternati con la maglia nella ruolo dell'SP MIB, Fiat, Parmalat e anche Italcementi, nonostante il gruppo cementifero ieri abbia confermato ancora una volta i target per il 2008, ribadendo che sono ancora valide le linee guida del piano industriale 2008-2012, nonostante uno scenario economico in deciso peggioramento. In difficoltà. Allora, dopo Unicredito torniamo ai migliori titoli. Dopo Unicredito a seguire tra le migliori prestazioni troviamo quella di Unipol, più 3,54, che sulla scia della situazione di Lehman Brothers aveva perso terreno, perché molte polizze indicizzate a questa obbligazione, adesso sta risalendo la china. La ex autostrade, più 3%, Finmeccanica, più 2,51, STM, più 1,96, A2A, più 1,34, Andrea. Sì, per quanto riguarda A2A è stata una giornata diciamo così molto positiva al mattino, poi ha arretrato con il peggioramento dei mercati Nel pomeriggio tuttavia la notizia che era attesa dell'assegnazione all'utility milanese dell'appalto di gestione per il termovalorizzatore di Acerra, notizia che è stata comunicata nel pomeriggio dal Premier Silvio Berlusconi, ha riacceso un po' gli acquisti sul titolo. Diciamo che era atteso il passaggio alla gestione del termovalorizzatore campano da Impregilo ad A2A, che era il principale soggetto interessato. Ha ottenuto questo appalto e il titolo ha risposto positivamente, guadagnando l'1,3%. A seguire poi troviamo Snam Rete Gas più 0,68, Monte dei Paschi, anche per il titolo dei Monte dei Paschi giornata davvero sul lotto volante, più 0,57 sul finale, Fastweb più 0,35, Enel più 0,19, Lottomatica più 0,10. Qua finiscono i titoli con il segno più davanti e poi iniziano quelli invece con un andamento più debole: Mediobanca meno 0,07, Terna meno 0,08, Telecom meno 0,10, Intesa San Paolo più volte citata meno 0,52, Seat meno 0,87, Eni meno 0,88, fino a poi ai cali che abbiamo raccontato. Andrei a raccontare anche qualche storia minore, per modo di dire. Abbiamo ancora tutti gli effetti anche della crisi immobiliare che comincia a farsi sentire nel nostro paese. Ieri per esempio il gruppo Gabetti ha annunciato un'importante ristrutturazione interna con la chiusura di molte agenzie e quant'altro. Insomma, come sempre il mercato molto cinicamente di fronte a queste ristrutturazioni, Andrea, risponde con dei segni più. Sì, Gabetti ha viaggiato in controtendenza per tutta la seduta, ha chiuso in guadagno del 2,11%. Come tu ricordavi, ieri il gruppo ha annunciato la riorganizzazione della propria rete per contenere i costi e anche una revisione del piano strategico 2009-2011, in particolare con la decisione di chiudere le agenzie di proprietà nel settore residenziale per puntare sul franchising. Il mercato ha accolto positivamente la notizia, per quanto rimanendo nel settore immobiliare invece non è andata così bene a Risanamento, che ha perso l'11% oggi. Il mercato continua a far scontare a questo titolo, alla società immobiliare del gruppo Zunino, l'incertezza che in questo momento investe il settore immobiliare e il settore bancario adesso strettamente collegato. In particolare in questi giorni Risanamento sta discutendo con le banche il riscadenzamento dei finanziamenti bancari, compreso un finanziamento da 150 milioni accordato in primavera. Tra queste banche in particolare c'è la tedesca Ipo Real Estate, che ricordiamo in situazione piuttosto critica sul mercato tedesco, e il mercato invece borsistico ha fatto pagare a Risanamento questa incertezza. È anche Unicredit, mettiamola così, perché un po' è anche colpa di quello che accade in Germania, se quello che poi succede in Italia su Unicredit succede, per l'appunto. Senti Andrea, 30 secondi di tempo prima di andare con i suggerimenti per chi è in viaggio. Non è esattamente un caso di borsa, ma non so se sentendo gli operatori che hanno un po' commentato le tendenze dei principali titoli di oggi, hai chiesto anche se questo giro di vite della Consob sulle vendite allo scoperto abbia avuto o no un effetto oggi sulle contrattazioni. Gli operatori sostengono che effettivamente l'andamento un po' diverso della seduta nel pomeriggio e schizofrenico rispetto a quello del mattino abbia sicuramente subito questa nuova mossa della Consob, che ricordiamo ha vietato appunto le vendite, o meglio ha consigliato che i titoli oggetto di vendita sul settore finanziario, sul settore bancario e assicurativo devono essere di proprietà, devono essere posseduti al momento dell'ordine e fino alla data di regolazione dell'operazione, per cui non è più possibile fare questo tipo di operazioni di vendita con titoli semplicemente in prestito, come invece era ancora possibile fino a questa mattina. Questo ha certamente amplificato alcuni movimenti, come per esempio le ricoperture sul titolo Unicredit. Andrea, grazie molte per essere stato con noi. Eccoci di nuovo ritrovati a Focus Economia. Allora, come abbiamo anche abbastanza ampiamente, l'approfondimento l'abbiamo lasciato a questa parte della nostra trasmissione, raccontato poco fa con Andrea Fontana, è stata una giornata assolutamente convulsa oggi a Piazza Affari per i titoli del settore bancario e per il terzo giorno consecutivo è stata una giornata convulsa per i titoli Unicredito. Solo che mentre per le prime due giornate della settimana abbiamo avuto un'unica tendenza, quella verso il ribasso, per tutte le preoccupazioni legate alle conseguenze su Piazza Cordusio della crisi finanziaria internazionale, anche se il mercato ovviamente ha speculato anche su qualcosa di più preoccupante, oggi invece la direzione è stata del tutto contraria. E perché questa mattina Unicredit ha dovuto fornire delle precisazioni alla Consob sullo stato patrimoniale in cui versa, sul raggiungimento dei target per la fine dell'anno, e poi ovviamente il gruppo è dovuto anche precisare e rassicurare il mercato dicendo: guardate, non c'è nessun amministratore delegato in uscita, non abbiamo convocato nessun consiglio di amministrazione straordinario quest'oggi e dunque il mercato è ritornato prepotentemente ad acquistare questa banca. Però insomma, questo è stato oggetto oggi ovviamente di molti commenti, di grande attenzione, perché ci si chiede a questo punto quanto questa crisi sta contagiando le banche italiane, anche se continuano a rassicurarci tutti che la tradizionale, la proverbiale prudenza delle banche italiane le ha rese largamente immuni insomma da questa crisi. Detto questo, però, oggi anche il Tesoro, quindi il Ministero dell'Economia, e il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi hanno voluto rassicurare tutti i risparmiatori e gli italiani rispetto a questo stato di cose. Sentiamo da Napoli Presidente del Consiglio. Quando il reddito di un'impresa rispetto al valore a cui la borsa porta la quotazione del titolo supera il 3-4%, significa che quell'impresa è sottovalutata. Ci sono imprese che oggi, per i valori di borsa che hanno, rendono il 12-14%. Che cosa significa? Che le imprese sono sane, che chi ha titoli di queste imprese non deve preoccuparsi, che deve semplicemente non farsi prendere dall'ansia, tenerli nel cassetto ed attendere che la borsa rivaluti realisticamente il valore dell'impresa sulla base della sua capacità di reddito. Quindi non facciamoci prendere da paure, il sistema italiano è diverso dal sistema di altri paesi abituati a spendere al di là delle possibilità dei singoli e delle famiglie. In Italia questo non è avvenuto, siamo un popolo di risparmiatori, siamo un popolo di gente che lavora, di gente concreta, che ha investito i propri risparmi nel darsi una casa, che è la prima garanzia per il futuro della propria famiglia. Le banche hanno oculatamente gestito i loro prestiti a persone capaci di una reddituralità tale da poter restituire il prestito, esattamente la cosa diversa rispetto a ciò che hanno fatto altre banche in altri sistemi. Quindi anche su questo il governo opererà in tutte le direzioni, ma non consentirà in alcun modo che ci possano essere speculazioni a danni degli istituti bancari e a danni dei risparmiatori. Buonasera, grazie di essere con noi, alla professora Andrea Resti, docente di economia degli intermediari finanziari all'Università Bocconi. Professor Resti, eccoci. Buonasera a voi. Allora, autore di un commento pubblicato questa mattina su MF dal titolo, che probabilmente, ovviamente, sempre colpa dei giornalisti, non lo avrà dato lei al suo commento, però insomma già ci dà la misura del tenore. C'è un serial killer nei dintorni di Piazza Cordusio. Allora, questa banca, la più grande banca italiana, reduce da intanto una grande aggregazione italiana sul mercato domestico, quella con capitali, e poi da grandi operazioni di espansione nell'est Europa, in Germania, l'acquisizione di Poverainis Bank. Tutto questo insomma non è bastato negli ultimi mesi a rassicurare il panorama degli investitori internazionali intorno alle capacità di resistere alla crisi da parte di Unicredit, perché comunque il mercato da qualche giorno si sta letteralmente scagliando addosso ad Alessandro Profumo. Tanto per citare una cifra e dare la misura di quello che ha dovuto subire Unicredit, nell'ultimo anno la sua capitalizzazione di borsa è passata da 77 miliardi a 34 miliardi. Professore, lascio a lei la parola. Cosa c'è dietro a questo accanimento, possiamo chiamarlo così, o comunque questa volatilità del titolo, questa reazione del mercato intorno ad Unicredit è motivata da qualche motivo che ancora non abbiamo appreso? Intanto è evidente che ci sono dei motivi di carattere sistemico, cioè c'è una crisi di nervi globale che si è spostata in questi ultimi giorni, ahimè, su questo lato dell'Atlantico. Poi, se invece vogliamo guardare le caratteristiche specifiche del titolo Unicredit, ciò che lei ricordava, cioè proprio il dinamismo, la crescita, il fatto di aver intrapreso tanti progetti, tante acquisizioni, per molto tempo è stato un punto di forza, in questo momento viene visto come una vulnerabilità, perché fare operazioni di espansione significa evidentemente portarsi a casa degli attivi che possono riservare sorprese, significa anche e soprattutto utilizzare patrimonio e quindi mettere sotto tensione i coefficienti di vigilanza e essere costretti poi ad andare sul mercato a chiedere nuove risorse patrimoniali. E in questo momento, mi creda, andare sul mercato a proporre un aumento di capitale francamente è molto difficile. È un gesto kamikaze, insomma, un gesto è suicida. Come cercare un centro trasfusionale in una notte senza luna in Transilvania, è più facile incontrare un vampiro. E quindi insomma abbiamo capito, quindi diciamo questa ipotesi rilanciata peraltro, rilanciata dal Sole 24 Ore di sabato, di una possibile richiesta di denaro al mercato, il possibile lancio di un aumento di capitale, non è piaciuta e da lì sono partite proprio poi le reazioni intorno al titolo. Ma in tutta questa ridda di voci, professor Resti, oggi addirittura ne è circolata una incredibile, quella che addirittura il Banco Santander, e sappiamo quanta liquidità ha e quanti acquisti sta facendo in questo periodo in Europa, ma addirittura insieme a Banca Intesa San Paolo si mettessero insieme per andare subito, dati i prezzi raggiunti da Unicredit in questi ultimi due giorni, ad accaparrarsi gli asset migliori. Siamo nell'ordine della fantascienza finanziaria, secondo lei, o è possibile che qualcuno un pensierino in queste ore ce lo abbia fatto? Il Banco Santander non ha smentito, è stato interpellato e il portavoce si è rifiutato di smentire. Ma peraltro la vicenda di Alitalia ci insegna che molti salvataggi possono essere un eccellente affare, soprattutto per i salvatori. Anche in questo caso è evidente che portarsi a casa una banca come Unicredit a prezzi di saldo, non dimentichiamo che il price earnings attuale indica un tasso di rendimento attorno al 14%, e evidentemente è un'opportunità che qualunque grande banca deve seriamente prendere in considerazione. Io questa mattina, nell'articolo che lei ha gentilmente ricordato, ahimè scritto per la concorrenza, dicevo che come nei polizieschi inglesi bisogna diffidare dalla rubiconda croce rossina che si offre di prestare i primi soccorsi al ferito. Non immaginavo che nell'arco di poche ore la Croce Rossina si sarebbe addirittura fatta avanti, avrebbe avuto un nome e un cognome. Professor Resti, un'ultima domanda, perché poi, come lei sa, il tempo radiofonico è assolutamente tiranno. Ha ragione Tremonti, hanno ragione Berlusconi quando continuano a sostenere, a rassicurarci sul fatto che la solidità patrimoniale delle nostre banche è al riparo dagli effetti più dirompenti della crisi generale? Io direi assolutamente sì, intanto sarà stato ricordato sicuramente anche dalle vostre trasmissioni, ma giova ripetere che fino a 103.000 euro i depositi bancari dei cittadini sono garantiti. Lo abbiamo più volte ricordato e non ci credono gli ascoltatori, la cosa peggiore è quella, che non sono neanche convinti di queste. Vi abbiate anche ricordato che le obbligazioni e i pronti termini sono esclusi dalla garanzia, perché non sempre le banche l'hanno comunicato in maniera trasparente ai loro clienti, anche perché, siamo onesti, fino a un paio di settimane fa nessuno si poneva problemi di questo tipo e francamente io non me ne pongo nemmeno adesso. Per quanto riguarda l'investimento in azioni o in obbligazioni delle banche, io credo che le obbligazioni verranno tutte regolarmente rimborsate, Le azioni francamente credo che il modo sicuro per fare danno sia venderle adesso. Grazie, chiarissimo. Grazie al professor Andrea Resti, docente di economia e intermediari finanziari alla Università Bocconi. Lo lasciamo tornare ai suoi studenti, lo ringraziamo per il suo contributo. Il quadro europeo è contrastato, la situazione a Wall Street è negativa, ma in miglioramento rispetto ad un'ora fa, quando gli indici perdevano 2 punti. Adesso il calo sul Dow Jones è di 1 punto, sul Nasdaq dell'1,65%. Tra l'altro c'è grande attesa per il passaggio stasera al Senato del piano Paulson da 700 miliardi di dollari. Da questa notizia partiamo per le nostre notizie in breve. Abbiamo sbagliato base, ma non succede niente, Pietro, perché possiamo tranquillamente raccontare. Anzi, forse questa ci piace un po' di più, così, visto che sono un po' tutti preoccupati i nostri ascoltatori per il clima finanziario che si è generato oggi anche nel nostro paese. Allora, da cosa partiamo? Partiamo intanto dal clima che c'è in questo momento negli Stati Uniti in vista dell'approvazione del piano Paulson. Approvazione che non è ancora come dire, un dato di fatto. Stasera c'è il passaggio al Senato, il provvedimento è stato emendato, lo abbiamo spiegato anche nella prima parte di Focus Economia, domani ritorna alla Camera dei Rappresentanti e insomma speriamo che passi, perché questo chiedono fortemente tutti gli investitori di tutto il mondo, chiede fortemente il sistema finanziario internazionale. Poi ci sono gli economisti, come dei dissidenti, non d'accordo, perché parlano di un eccesso di dirigismo del tesoro americano, di un eccesso di statalismo che il mercato non ha, di cui il mercato non ha bisogno, perché deve essere lasciato andare a sé, le banche devono fallire, insomma punti di vista diversi. Di fatto questo piano probabilmente al Senato americano passerà. Il Congresso deve approvare il piano Paulson, altrimenti sarà una catastrofe. Dal Wisconsin, Barack Obama, in Missouri, John McCain, i rivali della corsa alla Casa Bianca, oggi hanno fatto appello ai colleghi di Capitol Hill, quindi Washington, perché diano luce verde per il repubblicano McCain. La nuova versione del pacchetto presentato al Senato è un passo nella giusta direzione, ma se il piano verrà di nuovo bocciato a Capitol Hill, quella che oggi è una crisi diventerà un disastro. Come Obama, McCain torna oggi a Washington per partecipare alla votazione serale. Intanto c'è anche questo tentativo di risposta europea alle misure che si stanno prendendo negli Stati Uniti, perché la riunione dei quattro paesi europei membri del G8, cioè il G4, convocata dal presidente francese Nicolas Sarkozy, presidente di turno dell'Unione Europea, si svolgerà sabato pomeriggio a Parigi, lo ha detto il primo ministro lussemburghese Jean-Claude Juncker ai microfoni di Europen, ufficializzando la notizia. Intanto anche il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, sollecita il Congresso americano ad approvare il piano da 700 miliardi di dollari per restituire fiducia al sistema finanziario globale. Deve passare, ha detto Trichet in un'intervista a Bloomberg TV, per la salvaguardia degli Stati Uniti, ma soprattutto per la salvaguardia del sistema finanziario globale. Tra l'altro, a proposito di Banca Centrale Europea, ricordiamo che domani si riunisce il Consiglio Direttivo della BCE e si prenderanno misure sui tassi di interesse, e alla riunione per appunto agire sui tassi, ora fermi in Europa al 4,25%, ma non immaginiamo, anche se qualcuno ne aveva parlato nei prossimi giorni, un intervento, probabilmente verranno mantenuti al 4,25%. E intanto oggi è arrivato, visto le turbolenze che si sono registrate nel nostro paese, anche delle rassicurazioni dal tesoro italiano. Le tensioni che si sono verificate sul mercato borsistico oggi prendono le mosse, e anche negli ultimi giorni, dalla crisi del mercato immobiliare negli Stati Uniti, che ha di recente contagiato anche istituzioni finanziarie europee. Queste tensioni sono del tutto ingiustificate alla luce della solidità patrimoniale e della soddisfacente situazione di liquidità di tutte le principali banche italiane, ha detto il tesoro. Berlusconi da Napoli ha detto, lo abbiamo anche sentito, non consentirò attacchi alle nostre banche, attacchi speculativi, non accetterò che i cittadini italiani perdano neanche un euro dei loro depositi. Parmalat come Lehman Brothers. Al Tribunale di Milano, alla seconda giornata di requisitoria al processo per aggiotaggio, nelle parole dei magistrati continui paralleli e rimandi fra il crack da 14 miliardi di euro del gruppo di Collecchio e il fallimento del colosso americano recentissimo. La requisitoria dovrebbe terminare il 6 ottobre, quando l'aggiunto Francesco Greco dovrebbe formulare le richieste di condanna per Calisto Tanzi e altri 7 coimputati. La sentenza di primo grado è attesa per i primi di novembre. Oggi, dopo il pubblico ministero Carlo Nocerino, a prendere il microfono è stato Eugenio Fusco. Ecco alcuni passaggi della sua requisitoria raccolta da Raffaella Calandra. Crack Parmalat è stato ricostruito fino all'ultimo centesimo, però sono passati da quella primavera del 2003 quasi 5 anni, quando il 27 marzo di quest'anno Dick Fuld, amministratore delegato di Lehman Brothers, rassicurava dipendenti ed investitori sulla solidità della banca, replicando punto su punto alle voci allarmanti che circolavano a Wall Street. Ora noi, quando accendiamo un telegiornale o apriamo neanche le pagine economiche di un quotidiano, anche la prima pagina, vediamo che quella via, tutti la chiamano non più Wall Street, ma Fraud Street. Come è andata a finire lo sappiamo anche Lehman Brothers è stata dichiarata fallita. Sarà più difficile conoscere le proporzioni del disastro, soprattutto di quello indotto, di quello che il fallimento di questa importantissima banca ha creato su tutto il mercato globale. Noi ci troviamo di fronte ad un inganno, che è un inganno globale. Qui la potenzialità del falso è senza limiti né frontiere. Il gruppo Parmalat ha creato di sé una immagine virtuale. simulata, falsa. Parmalat è la società più bella del mondo quando è da anni tecnicamente fallita. E si è creata di Parmalat un'immagine virtuale che è sopravvissuta nel tempo e che ha spostato nel tempo il default. Qui la disinformazione globale che si è creata, come quella, e qui torno per un istante a Lehman, genera degli autentici tsunami finanziari. Noi qui non sappiamo, perché non tutti si sono costituiti, non sappiamo quante persone sono danneggiate. E andiamo invece adesso alla riforma del modello contrattuale. Si deciderà il 10 ottobre prossimo se la trattativa sulla riforma andrà avanti senza l'accordo della CGIL. Il nuovo round è stato fissato oggi al termine dell'incontro fra Confindustria e sindacati, un incontro che ha visto un nuovo muro contro muro fra la confederazione guidata da Guglielmo Epifani e l'associazione degli imprenditori. Al termine dell'incontro il nostro Vincenzo Miglietta ha sentito il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che ha spiegato di poter addirittura valutare la firma senza la CGIL, che vuole la reintroduzione dell'aggancio dei salari all'inflazione. Sentiamo. Noi oggi abbiamo presentato una nuova una serie di aperture importanti rispetto alla nostra precedente posizione. È stato molto apprezzato da CISL e UIL, che sostanzialmente sono d'accordo con noi. È stata di nuovo bocciata dalla CGIL. A questo punto la CGIL vuole di fatto un ritorno alla scala mobile, che è incompatibile con l'Europa, vuole una situazione di non regole nella contrattazione, che per noi è inaccettabile, una sorta di far west. Dice che noi con questa proposta vogliamo pagare meno i lavoratori. Non è affatto vero, è vero esattamente il contrario, perché invece noi vogliamo poter valorizzare il contratto aziendale, anche perché oggi con la detassazione i soldi dati a livello aziendale valgono il 20% in più rispetto a quelli a livello nazionale. Quindi questa posizione non è accettabile per noi. Oltretutto siamo in un momento tale di crisi finanziaria e economica che veramente chiudersi in questa posizione è veramente una cosa non accettabile. Ecco, è un veto di fatto questo qui della CGIL? Secondo noi sì, perché insomma noi abbiamo fatto rispetto alle nostre posizioni iniziali delle aperture molto importanti, la CGIL non si muove di un millimetro e quindi è evidente che questo è un problema. Tornerete a vedervi il 10, quindi con quale obiettivo? Noi il 10 presenteremo a questo punto il documento finale, che appunto riporta le aperture ultime che abbiamo fatto in questi giorni, che sono condivise da CISL e UIL, e a quel punto vedremo che cosa succede. Qualcuno ha interesse a mantenere il Far West, se è così ci adegueremo, così il vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei. Fino all'ultimo non ci alzeremo dal tavolo, ma per noi la trattativa è finita, così sempre Guglielmo Epifani, sempre al microfono di Vincenzo Miglietta. Non condividiamo la proposta di Confindustria. In modo particolare ci sono alcuni aspetti che fanno a pugni con il buonsenso. Cosa vuol dire, ad esempio, che per un lavoratore che già paga l'aumento del prezzo della benzina, delle bollette, quando deve calcolare l'aumento contrattuale, gli si toglie esattamente il valore dell'energia importata. Questo vuol dire che il lavoratore paga due volte. Paga di più benzina, paga di più bollette e ha meno salario. Ma in più, in questo modo, si deresponsabilizza governo e imprese dal tener bassi i prezzi. E gli unici che pagano l'andamento dell'inflazione importata è unicamente il lavoratore. Abbiamo confermato il nostro giudizio negativo sull'impianto, perché è un impianto che non protegge i salari, non li fa crescere, e soprattutto scarica sui lavoratori l'andamento in una fase come questa di incertezze. Noi dobbiamo rassicurare i lavoratori, far ridurre queste incertezze, tanto più in una fase di crisi e di trasformazione come quella che abbiamo davanti. Dunque, se si andrà a trattativa separata, abbiamo sentito chi si fa da parte, che potrebbe essere la CGIL. Sentiamo invece Raffaele Bonanni della CISL. Il tavolo sul rinnovo del modello contrattuale è ad un punto di svolta. C'è pluralismo sindacale in Italia. Non possiamo chiedere alle controparti di stare insieme quando a ogni peso spinto qua si tenta di dare dei diktat agli altri, che o si fa come si dice da parte di chi lo dice o non si ne fa niente. Bisogna avere pazienza e saper costruire sintesi sempre per chi è negoziatore e per chi è animato da intenzioni solo sindacali. Questa è la regola principale. La regola principale è quella di avere attitudine alla sintesi. e non attitudine appunto alla fuga in avanti. L'accordo non è tra sindacati, l'accordo è tra sindacati e imprese. Vorrei che questo si capisse. Non c'è accordo tra il sindacato che costruisce un meccanismo che poi può essere usato dal datore. Esistono accordi tra sindacati e imprese. La controparte non è il sindacato. Secondo me non ha motivo la trattativa di allungarsi, anche perché abbiamo non solo appuntamento con le altre associazioni che vedo, sento, sono molto disponibili e molto ansiose di iniziare anche loro appunto a scavare sul come i loro settori saranno regolati. Insomma, siamo alla vigilia di un autunno che sarà, secondo noi, altro che se caldo da questo punto di vista. Lasciamo però la contrattazione aziendale, andiamo invece al mercato dell'auto in Italia. Buonasera Gianprimo Quagliano, responsabile del centro studi Promotor. Buonasera. Buonasera Deborah. Allora, auto, mercato in Italia in settembre, calo delle vendite del 5,5%. Siccome abbiamo appena 3 minuti di tempo, Gianprimo, non racconto altro, a lei appunto il resoconto della statistica di questo mese. Sì, questo 5% è un 5% un po' a sorpresa, perché ci si aspettava un calo molto superiore, in quanto il mese era partito molto, molto fiacco, poi evidentemente è recuperato e quindi abbiamo questo calo abbastanza contenuto, dovuto però anche al fatto che ci sono state 2 giornate lavorative in più. A parità di giornate lavorative il calo sarebbe stato intorno al 14% e quindi sostanzialmente allineato con l'andamento del mercato di quest'anno, che è appunto in difficoltà dopo aver corso il mercato italiano per ben 11 anni. Con l'inizio del 2008 il ciclo ha svoltato e siamo entrati in una fase negativa. Però insomma questa cifra, questa percentuale ci sembra significativa alla luce del fatto che cala anche in un momento difficile per altri aspetti. È un bene durevole l'auto, che viene acquistata anche a rate in una fase ristretta del credito. Ci pare anche significativo che la discesa delle vendite non sia stata poi così importante, così netta, Quagliano. Sì, ci sono stati dei forti interventi di sostegno dei concessionari che hanno investito molto per sostenere le vendite, perché il credito al consumo è uno degli aspetti che hanno negativamente, l'andamento del credito al consumo negativamente inciso sulla propensione all'acquisto della gente, perché il credito costa di più ed è più difficile ottenerlo per i consumatori, ma infatti è anche più difficile ottenerlo per i concessionari. Ecco qua. Allora, oggi peraltro per il settore automobilistico è stata una brutta giornata in Germania, perché abbiamo avuto questa notizia di un possibile allarme utili che potrebbe essere lanciato da Daimler Chrysler, ma in tutto questo apprendiamo che invece le immatricolazioni di Fiat in settembre sono scese del 6%, ma per Fiat soprattutto c'è una buonissima notizia oggi sul versante del mercato francese. La Francia è un'isola felice, infatti il mercato francese sta andando bene grazie a incentivi per le vetture ecologiche, e infatti in settembre il mercato francese è aumentato dell'8%, dell'8,3% per l'esattezza. Il gruppo Fiat è aumentato addirittura del 46,7%, mentre il solo marchio Fiat del 61,3%. Quindi la Francia, direi, dà delle belle soddisfazioni in un momento in cui invece il mercato interno è un po', il mercato italiano è un po' in difficoltà. Grazie a Gianprimo Quagliano, direttore del centro studi Promotor, che risentiremo anche nelle prossime edizioni del giornale Radio in GR Economia domani, e quindi apprenderemo insomma maggiori dettagli rispetto all'andamento delle vendite delle auto nel nostro paese nel mese di settembre. Intanto grazie anche a Barbara Bianchi e a Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, a Pietro Lacorte per l'assistenza tecnica, a dispetto degli errori fatti con le basi questa sera, ma insomma noi lo adoriamo lo stesso. Deborah Rosciani, buona serata a tutti, ci risentiamo domani a Salvadanaio.